tempo di sport. Amici di Radio 24, buon pomeriggio da Massimo Callegari, benvenuti a voi che potete contattarci naturalmente come sempre all'800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666, Roma capitale del mercato. Ne parliamo con Roberto Renga, collega del Messaggero. Benvenuto Roberto, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie per la tua disponibilità, perché sappiamo che il mercato delle radio a Roma è intensissimo. Anche dei giornali e dei libri di tutto, ma anche molto caldo poi in tutti i sensi. Quello del calcio invece, io ho detto Roma capitale del mercato, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, ci sono due società che si stanno muovendo, come sempre succede tra Roma e Lazio, all'opposto. La Roma che sta, anche se la parola progetto è un po' esagerata quando si parla di calcio o anche della vita, ma insomma sta inseguendo un progetto di calcio, diciamo, futuribile o giovane, un calcio ottimista, calcio d'attacco, quindi l'allenatore spagnolo e molti giovani, l'ultimo dei quali, quello come sappiamo, il talento del calcio argentino, Lamela, che dovrebbe firmare da un momento all'altro, sta a Trigoria già, eccetera. Mentre la Lazio sta facendo una buona squadra, decisamente equilibrata, in particolare la libera Cissé, come sembra, quindi davanti con Cissé e Close, sicuramente una buona squadra, ma di tipo arcaico, un po' tradizionale, e quindi direi che è giusto che le due società si differenzino. È molto bello che si diano così da fare, poi vediamo chi ha ragione. Io propendo più per il progetto romanista che non quello laziale, ma riconosco che la Lazio è molto quadrata, in questo momento è molto forte. Secondo te a Roma e nell'ambiente giallorosso esiste la condizione principale per sostenere un progetto di questo genere, legato a un nuovo allenatore, ai giovani, a nuova dirigenza, ovvero la pazienza? Allora, io penso che se c'è una piazza in Europa che possa coltivare un progetto di questo tipo, un'idea di questo tipo, è quella romana, perché qui c'è stato Lidl, poi c'è stato Eriksson, poi c'è stato Zeman e poi Spalletti. Cioè, diciamo che almeno i tifosi quarantenni, no, o i cinquantenni sono abituati, credono, no, nel calcio spettacolo, nel calcio divertente, nella quello che è da una volta era la zona celeste di Lidl, no, via via perfezionata da altri. I giovani, con i giovani era più difficile, su questo non c'è dubbio, e secondo me però spetta alla società fare dei discorsi molto chiari. Cioè, attenzione, noi non è che puntiamo a vincere oggi o a stravincere oggi, eccetera, puntiamo a fare una squadra che sia, adesso si parla molto di Barcellona, ma io direi di Roma, che sia la Roma tradizionale, cioè quella che gioca bene a pallone. È chiaro che ci vuole molta bravura nella comunicazione. Sì, De Rossi è una colonna fondamentale della nuova Roma e del nuovo progetto? Guarda, ovviamente chiunque arriva a Roma dice De Rossi lo devo tenere, insomma, perché sarebbe un po' a darlo via. È chiaro che De Rossi è un po' di tempo, un paio d'anni, che non gioca più come dovrebbe o come potrebbe, ed è altrettanto chiaro che tra un anno scade il contratto. Secondo me possono trovare una soluzione che possa andare bene entrambi, di allungare di un anno, perché così De Rossi avrebbe comunque l'opportunità, qualora non si ritrovasse in questa nuova società, di fare l'ultimo contratto bello della sua vita a 29 anni, e la Roma potrebbe vedere se Daniele De Rossi è ritornato quello di prima o no. Secondo me si potrebbe fare così. Certo che io ritengo che lui abbia il diritto, per il passato e anche più che per il presente, di scegliere lui comunque il suo destino. Se vuole andare via perché non si sente più a suo agio per motivi personali, come più o meno sanno tutti, in questa città, vada altrove, ci mancherebbe. Devo dire che la cosa più interessante e che stuzzica di più anche la curiosità è questa idea di una squadra con un falso centravanti, come dicono in Spagna, e che riporterebbe Totti nel ruolo che lui mi sembra sempre abbia poi ribadito di gradire di più, con la possibilità che Bojan lo assista, e quando Totti non è in condizione o ha problemi fisici possa anche sostituirlo. Guarda, io spero, così come spera la società, che Vucinic rimanga. E dai messaggi che mi arrivano, Vucinic si starebbe un po' ammorbidendo, anche perché l'idea di giocare in una squadra di questo tipo piace anche a lui. A Roma giocherò con il 4-3-2-1, quindi con il vecchio albero di Natale, e quindi con due mezze punte alle spalle di Totti. Le due mezze punte potrebbero essere Bojan e Lamela, cioè saranno loro, ma sicuramente se rimane Vucinic, anche Vucinic. Vucinic può eventualmente giocare al posto di Totti, è l'unico, no, che può interpretarlo, oppure al posto di Lamela, oppure al posto di Bojan. Cioè, sai bene che su, quando ci sono tre ruoli, i titolari dovrebbero essere quattro almeno, o cinque se possibile. Sì, c'è spazio per tutti quanti. Fondamentale è che Totti continui a stare così come sta. Io non ho dubbi. Il problema potrebbe essere sulla preparazione, relativa alla preparazione. La Roma, tutta la Roma, eccetto Totti, viene da una stagione in cui non ha fatto preparazione. Ci vuole che qualcuno lui si dica, ma insomma i dirigenti esistono per questo. Sì. Mentre Totti si è allenato moltissimo, ma si è allenato da 35enne, cioè lo allena Vito Scala. Quindi ci vuole che Vito Scala continui a curare la preparazione di Totti, magari modificandola lievemente secondo le idee di Luis Enrique. Ci vuole intelligenza, ecco. Io però presumo che, no, visto che guadagnano tanto i soldi nel calcio, ogni tanto possono anche essere intelligenti e competenti. Un po' troppo. Senti, invece tu parlavi di Lazio arcaica, quindi insomma tradizionale. Palla in mezzo per i due centravanti in testa. Infatti. È il calcio di Capello, se ci pensi, no? Sì. Che andava benissimo. Conterraneo di Reia. Non è un caso, vero? Mm. Che andava benissimo, diciamo, per la Roma che ha vinto lo scudetto, quella di Battistuta. Però stiamo parlando di 10 anni fa. Però adesso il calcio è un po' cambiato. Infatti, poi sembra anche un progetto un po' diverso, un'idea un po' diversa rispetto a quella che ha percorso la Lazio di Lotito negli ultimi anni, quando è andata a pescare giocatori come Lichtsteiner, come Radu, come altri, lo stesso Hernanes pagato però un po' di più, non già affermati e noti come Sissé, Klose e lo stesso albanese Kane, che arriva dopo che esperienze Galatasaray al Marsiglia. Perché c'è questo cambio di rotta secondo te? Perché secondo me vuole ottenere i risultati Lotito, perché come sai Lotito, magari uno da fuori dice, ah beh vedi, sta risanando la Lazio grazie al fatto che può pagare, no, in 23 anni tutti i suoi debiti, ma qui a Roma non piace alla tifoseria laziale, quindi è molto sgradito, non poco, è molto sgradito. E allora magari cerca di riconquistare i tifosi ottenendo i risultati immediati. Sta facendo una squadra vecchiotta, è ovvio che se vai a prendere Klose e Cissé non fai una squadra giovane. Questo è un dato di fatto. E poi l'altro è che non c'è più Sabatini, tutti i giovani che di cui parliamo, no, di allora, della Lazio, la presi tu Sabatini. Io mi ricordo Zárate, per esempio, che lo possiamo discutere, ma sicuramente è un talento. Lui stava andando via dalla Lazio, io avevo ricevuto questa la notizia che stavano per prendere Zárate, mi chiamò e mi disse, fammelo comprare prima, te ne prego, è l'ultimo regalo che voglio fare alla Lazio. Ecco, diciamo, quella Lazio era così, puntava sui giovani come sta facendo la Roma adesso, come vorrà fare la Roma adesso. La Lazio di oggi è una squadra che punta sui risultati immediati. Vedremo quali saranno le evoluzioni e gli sviluppi di questo progetto giallorosso e dell'idea biancoceleste. Grazie, buon lavoro, a presto, sì, Roberto Renga. Ma volevo solo dirti che forse il prossimo potrebbe essere Petrovic, che mi piace molto, il mediano della Roma. Quello del partito, non so se lo prendono, ma insomma io mi auguro di sì, perché è molto molto forte, 1,95 m. Sì, l'ho visto in nazionale, è vero, sì. È tra i più bravi che ci siano. È vero, ma sì. Speriamo, se arriva anche quello, il progetto diventa ancora più interessante. Bene, ci ha regalato anche questa bombettina finale di mercato, grazie, a presto Roberto. Buona giornata Roberto Renga, collega del Messaggero, vi aspetto naturalmente all'800 24 00 24, 349 238 6666, già alcuni messaggi di chi insomma commenta questo entusiasmo che cresce nella capitale soprattutto per la Roma, mentre la Lazio cerca di consolidare quanto ha fatto nelle ultime stagioni, nell'ultima in particolare con Edi Reia. Vi aspetto, poi sentiremo anche l'ultimo Leonardo italiano, quello di ieri a San Siro. Pensieri, parole, opere e anche qualche omissione, secondo alcuni commentatori, di Leonardo, che ha detto «Non sono un traditore», tra poco. Bentornati, sono in arrivo le prime telefonate all'800 24 00 24, alcuni messaggi al 349 238 6666, chi chiede anche giustamente se la cessione della Roma agli americani si è conclusa, dovremmo essere agli atti formali con questa presidenza a interim di Cappelli e poi insomma alla conclusione dei dettagli, anche perché le trattative che la Roma sta conducendo e sta portando a compimento si basano evidentemente su accordi che devono essere solo formalizzati. All'800 24 00 24, Antonio da Napoli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, prima di parlare volevo farle complimenti perché sono praticamente un suo fan. Ah, la ringrazio. Anche se una volta di prima per televisione, comunque quando stavo in radio e quando stavo a Sport Italia era un piacere immenso. Comunque, per parlare del mercato della Juventus, si parla tanto di questo top player pare che dovrebbe arrivare come attaccante, ma... Ma la radio accesa, la radio accesa, Antonio? No, l'ho sentita, l'ho sentita. Ah, la sento male, però provi, vi diceva della Juventus? No, volevo dire che praticamente ce ne abbiamo già sei attaccanti, e praticamente se ne si affissassi un altro ne diventerebbero sette. Io penso che sia del tutto ingestibile una cosa del genere. E per me è soltanto fantasia, infatti, perché io posso un attaccante, perché comunque ci sta Samara, gli Aquino e Toni, che sicuramente non andranno via perché non si prenderà nessuno. Volevo sapere cosa ne pensavi. Ho capito, grazie, la sentivo male, però insomma mi sembra di aver capito, e spero l'abbiano compreso anche da casa, il senso della sua richiesta, cioè ci sono già sei attaccanti in rosa, perché cercare il settimo? Perché c'è comunque la volontà di modificare lo stile dell'anno scorso nel mercato della Juventus, perché tutti hanno criticato la Juventus di aver comprato molti giocatori, nessuno di altissimo livello, e allora quest'anno, seguendo un po' questo impulso e questa onda, si cerca di cambiare metodo e strategia, però prima bisogna cedere i giocatori, alla fine molti nomi stanno rivelandosi solo delle copertine per altre operazioni, quello di Agüero innanzitutto, ma anche altri. Ripeto quello che ho precisato e anticipato ieri, che la Juve e la nuova dirigenza hanno e avevano probabilmente la possibilità di creare un progetto completamente diverso, non dico rivoluzionario, però differente rispetto ad altri, affidarsi a un allenatore con un progetto di 3, 4, 5 anni senza inseguire immediatamente di nuovo risultati di difficile raggiungimento, quindi parlare di scudetto e altro. Però insomma la linea è diversa, capisco che ci sia grandissima fame da parte del popolo bianconero di successi, però si possono ottenere anche in maniera graduale, ritornando innanzitutto nell'Europa che conta, anche perché il problema della Juventus, di cui si parlava, di tanti giocatori in rosa, aumenta, nel senso che poi nel prossimo anno la Juventus giocherà il campionato e al massimo 5 partite in più di Coppa Italia, quindi il turnover non sarà poi così possibile e realizzabile. Paolo da Napoli. Sì, buongiorno. Buongiorno, abbassi la radio. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, io vorrei fare una considerazione sulla squadra del Napoli, no? Sì, abbassi la radio però, sennò non la sentiamo. Stanno correndo troppo appresso a questo Inaler, che non lo so se si decide a venire o no. Nel frattempo stanno facendo andare i migliori giocatori come Vidal, che è stato acquistato già dall'Inter, se non sbaglio. No, beh, non esageriamo, non esageriamo. Lo ha seguito l'Inter, lo sta seguendo, ora pare che sia in leggero vantaggio, però siccome Vidal sta giocando in Coppa America, è possibile, è probabile che il Cile sia una delle squadre che si metteranno maggiormente in mostra, perché ha un buon impianto di gioco, è ben organizzato, ha un buon allenatore come Claudio Borghi, e quindi Vidal potrebbe usufruire di tutto questo impianto positivo attorno a lui. Aspetterà il Bayer Leverkusen a prendere un accordo definitivo con un club. Certo è importante, non so se il Napoli, come dice lei, stia correndo appresso a Inter in maniera esagerata. So che ci sono alcuni problemi legati ai diritti d'immagine, che è una cosa a cui tiene moltissimo De Laurentiis, addirittura l'idea di creare le scarpe del Napoli, che quindi poi crea problemi con i singoli giocatori che hanno accordi con i vari sponsor commerciali. Insomma, questi dettagli che potrebbero essere un ostacolo, però Inter è un giocatore che nell'Udinese è stato fondamentale tanto quanto Sanchez e Di Natale, e per la struttura di gioco del Napoli è fondamentale e può migliorare il settore del centrocampo rispetto al rendimento degli anni scorsi. Andrea da Bologna, prego. Salve, buon pomeriggio. Buongiorno. Allora, io intervengo chiedendole, essendo lei un grandissimo intenditore di calcio sudamericano, ma 45 milioni di euro li vale Agüero? Beh, questa è una domanda che si fanno in tanti. È una clausola che ha posto l'Atletico di Madrid e da cui al momento sembra non volersi muovere. Peraltro è una clausola che vale dai tempi di Ronaldo, quello vero, del Barcellona, e che in teoria dovrebbe valere solo per il mercato spagnolo. Poi in realtà i club la fanno valida anche per l'estero. Agüero è un giocatore importantissimo, ha ancora margini di miglioramento, soprattutto per la capacità che deve migliorare di giocare con i compagni, perché se ci fate caso, adesso si è intravisto alla Coppa America, ma con l'Atletico di Madrid sono anni che si esprime in questo senso, è un grandissimo solista, negli spazi in contropiede è micidiale, devastante, però deve anche migliorare in altri aspetti, la sua valutazione può essere un po' più bassa, certo, però almeno 30-35 milioni è una cifra che bisogna spendere, e poi se la concorrenza sono gli sceicchi del Manchester City, a quel punto tutti i prezzi vengono gonfiati e quasi dopati da questo mercato, caro Andrea. Fabio da Padova. Sì, buongiorno. Buongiorno, dica. Salve, io volevo fare una domanda più a largo raggio a livello di calcio italiano. Volevo chiederle, io sono milanista e il Milan sta cambiando completamente il modo di giocare che aveva con Ancelotti, con Allegri, adesso punta sull'acquisto di Amsic perché credo che voglia tutti i giocatori di inserimento, di movimento Allegri. La Juve sta facendo, se arriveranno i giocatori che sentiamo nominare, comunque una buona squadra. La Roma punta su un allenatore giovane, comunque giocatori giovani ma già di buon livello, e la Lazio si sta rinforzando. Credo che in un paio d'anni il calcio italiano potrebbe arrivare finalmente a competere un po' di più in tutte le competizioni europee dove stiamo un po' scarseggiando, o ci vorrà un po' più tempo? Grazie, l'ascolto per radio. Grazie a lei, Fabio. Non voglio essere così pessimista e spegnere entusiasmi, però siamo molto distanti, perché comunque si vive troppo alla giornata o alla stagione, e in questo momento il Milan sta avendo una idea più complessiva e più a largo raggio delle sue strategie, però è difficile sapere e essere sicuri che varrà così per un lungo periodo, perché il Milan viene, è della stessa società con gli stessi dirigenti, da anni in cui invece ha operato in maniera completamente diversa, andando su giocatori molto affermati, sperando di poterne rivalutare altri, non sempre riuscendoci, spendendo molto per giocatori che poi avevano ingaggi altissimi. Ora questa è la nuova strategia ed è corretta, deve essere perseguita però nel tempo. L'Inter sembrava aver intrapreso una strategia di un certo tipo, di lavorare sulle indicazioni precise degli allenatori, dell'allenatore, quando con Mourinho ha cambiato 5 giocatori, poi ha vinto subito la Champions, avrebbe anche potuto fare qualcosa di meno, ma l'idea e la traccia era quella, tutto completamente spazzato via e travolto dall'addio di Mourinho e dai cambi di allenatore, che sono già 3 nel giro di 12 mesi, tutti con un'idea di calcio completamente diversa, da Benitez a Leonardo a Gasperini, e poi tutte le altre. La Roma, va bene, ne abbiamo parlato, la Lazio insomma vive soprattutto sull'esperienza, ma in Europa si vince con l'organizzazione di gioco e con una qualità complessiva, non solo in attacco, come scrive Andrea da Pinerolo, ma anche negli altri settori, mentre noi non abbiamo questa idea, quindi 2 anni secondo me sono pochi, ma insomma non vorrei, ripeto, spegnere i vostri entusiasmi. Ora la borsa e poi torniamo ancora, 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Paris, c'était la gaieté Paris, c'était la douce rosée. E io ho un rapporto con il presidente che credo che fate fatica a capire. Veramente sono stato trattato, lui mi ha trattato come se fosse mio padre, perché dopo, parlando con la Carlotta e con Mao, dopo che tutto è successo, loro mi hanno detto: Leo, lui ci tratta esattamente così. Se lui crede che sia una cosa bella, lui non la chiude, lui non te la blocca, anzi lui ti fa pensare con la massima libertà e farti decidere. Guarda, del Paris Saint-Germain io c'ho poco da dire, anche perché conosco poco quello che sta succedendo là. Io non so quello che sta succedendo a Parigi con la squadra. Io non ci ho mai parlato con nessuno a parte il proprietario. E stava accadendo una confusione incredibile, perché è stata creata una confusione incredibile, perché era una situazione come oggi, non è sicura di niente. È vero che dopo che io ho chiuso il mio contratto, ho incontrato, e la cosa è diventata più possibile, però non mi hanno mai fatto una proposta economica. Io non ho mai parlato di soldi. E io, dopo la prima volta che è uscita la chiamata alla gente di Bielsa, io sono andato avanti a organizzare la preparazione. Allora lo sapevate. Lo sapevate, ma i giudizi erano altri. L'Inter stava valutando perché il presidente, per quello suo modo, ha cercato di capire il non bloccarmi una possibile possibilità, conoscendo la mia storia, è scattato un casino della Madonna. È un casino ancora più grande, forse per il mio passato. La realtà nuda e cruda è che Leonardo sta per diventare il direttore tecnico del PSG, a giorni l'ufficialità è che Moratti, quando si è accorto che il suo allenatore avrebbe sempre avuto prima o poi la tentazione di andarsene a fare il dirigente altrove, ha pensato che fosse opportuno rompere gli indugi ed evitare problemi futuri, quindi l'ha entusiasticamente spinto all'addio. Questo scrive Andrea Sorrentino su Repubblica oggi, dopo le parole di ieri di Leonardo in conferenza stampa a San Siro, che avete sentito sulle note di Edith Piaf. Andrea Sorrentino è in collegamento con noi ed era uno di quei signori che sentivate un po' accalorati chiedere a Leonardo ieri: ma perché non hai fatto un comunicato per spegnere tutta questa centrifuga? Andrea, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. A volte... cioè, uno si stanca anche di sentirsi raccontare delle verità un po' preconfezionate. Allora, ieri io, ma non solo, sono un po' così insorto di fronte alle cose che raccontava Leo. Ma per carità, io poi davvero ho anche una comprensione umana per il personaggio Leonardo, nel senso che lui non vuole fare la figura di quello che ha tradito prima il Milan e poi l'Inter, anche perché lui a Milano tiene casa, tiene un pezzo della sua famiglia e continuerà a tenerli, quindi sarebbe difficile per lui continuare a frequentare una città in cui tutti lo detestano. Quindi ieri lui ha cercato così di raccontare che il suo divorzio dall'Inter non è stato voluto da lui, ma che è nato per una serie di circostanze così avverse. Secondo in te... In realtà non è proprio così, ecco. Ecco, secondo te è realistico, tra le varie cose che lui ha detto, che Moratti, conoscendo tu Moratti e la sua personalità, seguendolo da anni, è realistico pensare che quando Moratti dice ancora Leonardo potrebbe essere allenatore dell'Inter, come sostiene Leonardo, il presidente sta cercando così un consenso popolare di capire se si può ancora tornare su questi passi? Credo fino a un certo punto. Secondo me quella cosa a Moratti, che è molto molto molto più scalto di quanto noi siamo abituati a pensare, perché a volte lo liquidiamo così nei suoi comportamenti giudicandolo un po' superficiale, in realtà Moratti, io che ho imparato un po' a conoscerlo in questi anni, difficilmente dice delle cose a caso. Moratti quel giorno, ormai due giorni prima della firma di Gasperini, disse quella cosa su Leonardo perché era sicuro che la reazione mediatica e anche del popolo sarebbe stata no, basta con Leonardo, e sulla scorta di quella reazione lui sarebbe andato da Leonardo a dirgli: vedi, ormai non ci sono più le condizioni. Perché Moratti, presidente dell'Inter, aveva capito da tempo che Leonardo sarebbe stato sempre un allenatore così con un piede e mezzo dentro la porta, perché il problema di Leonardo è che non ha ancora deciso esattamente qual è la sua vera strada nella vita. E il fatto di essere diventato allenatore del Milan e poi dell'Inter, sappiamo che sono tutte situazioni nate da momenti particolari dei due club, ma lui in realtà sogna di fare il dirigente, il gestore di un ambiente, il presidente di un club, l'organizzatore di un mondiale, forse anche il ministro degli esteri o il ministro dello sport di un paese come il suo, che è il Brasile. Queste sono le sue vere aspirazioni. Moratti l'aveva capito, e pur avendo stima nell'uomo Leonardo, aveva intuito che l'allenatore Leonardo non avrebbe avuto una grande tenuta, e quindi è stato Moratti a spingerlo davvero verso il Paris Saint-Germain appena ha visto che Leonardo aveva avuto la tentazione. Il problema, e poi questo si è capito ieri ma si è anche un po' intuito nei giorni scorsi, è stato che Leonardo, durante questa trattativa un po' particolare col Paris Saint-Germain, a un certo punto ha anche pensato: ma no, io me ne rimango all'Inter. Però era troppo tardi. Ah, ci ha pensato allora lui. Come? Lui ci ha pensato veramente. Ma lui ci ha pensato veramente, e la proposta del Paris Saint-Germain lo convince fino a un certo punto, anche se pare che stia molto soddisfacente sul piano economico. però è anche un salto nel buio, perché comunque è un nuovo club con nuovi proprietari che non vengono dal calcio, quindi insomma è un'avventura un po' particolare. Lui a un certo punto ha pensato che forse era meglio rimanere all'Inter al sicuro, ma a quel punto era troppo tardi, perché Moratti aveva già contattato 4-5 allenatori, stava per scegliere Gasperini ed era cominciato a mancare, diciamo così, quel rapporto di fiducia da presidente e allenatori che dovrebbe essere alla base di tutto. Moratti, insomma, aveva capito che Leonardo non sarebbe mai stato un allenatore tout court al 100%, 24 ore al giorno, e in questo momento all'Inter invece serviva un allenatore così, e per questo è stato scelto Gasperini. L'ultima cosa, quanto ha inciso e incide secondo te la brasilianità addirittura di Carioca, quindi di Niterói, praticamente Rio de Janeiro, di Leonardo nella sua personalità, in questo suo modo di vivere, come sostiene sempre lui, il momento senza pensare poi a quello che sarà? Lui, questa è davvero la sua particolarità, la sua unicità, se vogliamo, nel mondo del calcio, perché io, almeno io personalmente, non ho mai incontrato personaggi così complessi, diciamo così, come Leonardo. Io penso che influisca senz'altro la sua brasilianità e il suo essere carioca, ma come tu sai, insomma, si può essere carioca in un modo o in un altro. Lui è un carioca di ottima famiglia, di natali, diciamo, particolari. Ha sempre avuto la possibilità di scegliere nella sua vita le varie strade che ha intrapreso, e questo va anche a suo onore. Ricordiamo che lui a 23-24 anni prese e se ne andò a giocare in Giappone per 2 anni, eppure era un nazionale brasiliano campione del mondo, sì, giunta nel 94. Quindi, sai, è sempre stato un personaggio un po' così, però proprio questo suo anelito alla libertà di scelta e di pensiero rischia di diventare una gabbia per lui, perché alla fine diventa un personaggio difficilmente gestibile, difficilmente inquadrabile. È vero. E tutti noi sappiamo quanto ci sia bisogno di inquadrare chiunque in un cliché, anche forse sbagliato, però magari in un mondo come quello del calcio, che va un po' così, taglia le cose con l'accetta, o sei allenatore, o sei giocatore, o sei dirigente, o sei qualcos'altro, ma non puoi essere tutte le cose insieme, perché altrimenti poi sfuggi troppo, no? Esatto. Va bene, grazie, vai a rinfrescarti, che ieri eri bello carico. Grazie. Ciao a tutti. A presto, grazie Andrea Sorrentino di Repubblica. Bruno, dalla provincia di Milano, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti. Niente, io un po' di cose che sono state dette su Leonardo le condivido, altre un po' meno. Ieri ho assistito anche alla conferenza stampa tramite la televisione, mi sono fatto una mia idea, e comunque sì, Leonardo ha le idee confuse, che sicuramente Moratti ha detto delle cose per farne pensare altre, eccetera, però l'idea di fondo che ho è che bisogna anche avere un po' di rispetto anche per i tifosi che comprano il biglietto, che seguono la squadra, eccetera, e questi sotterfugi, questi modi di approcciare, eccetera, sia da parte della dirigenza dell'Inter sia di Leonardo, secondo me andrebbero un attimino rivisti, proprio in considerazione del fatto che ci sono dei tifosi che sanno alcune cose, probabilmente non tutte, però insomma si gioca anche con l'intelligenza della gente. Ma per lei è un bene che Leonardo non sia più allenatore dell'Inter e quindi ci sia Gasperini, sì, o l'avrebbe voluto ancora sulla panchina dell'Inter? Ma guarda, ti dico questo, io Gasperini non lo so se farà bene, se farà male. Io credo ai progetti a medio e a lungo termine, sicuramente non a un Gasperini che può essere forse un personaggio che starà un anno, se farà bene forse due. Non vedo in questo momento da parte di Moratti un'idea chiara su un progetto a lungo termine, questo sicuramente no. Avevo avuto l'idea che forse con Leonardo questo progetto potesse partire, magari avendo tra i dirigenti dell'Inter, avendo un altro allenatore sulla panchina, e magari appunto con questo trovare dei giocatori giusti per fare un altro tripletto o qualcosa di importante sempre da Inter. Va bene. Così sicuramente non lo so, ma si naviga a vista. Sono deluso un po' da tutte e due, da tutta questa vicenda, che c'è tantissima contraddizione. Mi tratta come un papà e nello stesso tempo non sa niente di quello che succede con Paris Saint-Germain. Li ho visti solamente dopo che hanno preso i Gasparini, ma mi sembra tutta una grande banda. Grazie, buon pomeriggio Bruno. Tra poco parleremo anche di World League con l'Italia che è in piena corsa per raggiungere le semifinali. Ancora telefonate all'800 24 00 24. Lorenzo da Catania, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Senta, io volevo ritornare sulle uscite del Moratti in esito alla relazione del pubblico ministero. No, ancora Lorenzo, ancora. Sì, volevo perché chiudere immacolato questa giornata, allora, niente, allora, non ce la facciamo. Allora parliamo di Leonardo, solamente all'Inter possono capitare circostanze come queste, ambigue, come quello di Benitez e come quello di Leonardo. Già si sapeva, quando tutti quanti dicevate che Leonardo aveva fatto una scelta di vita, eccetera, si sapeva che dietro c'era l'indecisione che annosa di Moratti, che non ha dimostrato ancora una volta che non sa neanche come comportarsi in una squadra, in una società di calcio. Questa è la verità, ed è la verità per cui lui non vinceva, e non vinceva perché non sa di calcio. È inutile che ora si e poi come ha fatto a vincere tutto il resto dopo, allora? Che cosa ha vinto? Contro nessuno ha vinto Moratti. Ah, anche la Champions. Revocati anche questi quattro scudetti di cartone che ha avuto nel E via, trionfo. Andrea Zorzi è in Polonia e sta vivendo la World League da vicino, la stai seguendo, Andrea? Ieri hai seguito questo successo dell'Italia sulla Polonia, Andrea Anastasi, bentornato. Sentiamo malissimo. Adesso sì. No, non va bene Andrea, ci sentiamo tra un po', proviamo a ripristinare il collegamento e a renderlo più fruibile e più adeguato per raccontare quello che è successo ieri con la vittoria dell'Italia sulla Polonia. Oggi la sfida decisiva su Rai Sport 1 alle 17:15 contro la Bulgaria per accedere alle semifinali, con la possibilità, insomma, di giocarsi poi queste sfide contro le grandi potenze del volley mondiale, dopo aver perso nel match inaugurale contro l'Argentina. Una grande vittoria ieri in un clima formidabile, con quasi 16.000 spettatori e un tifo infernale. La Polonia di Andrea Anastasi, del suo secondo, il grande Andrea Gardini. Giuseppe da Como, prego. Buon pomeriggio a tutti. Volevo intervenire sulla situazione dell'Inter di questo momento. Io semplicemente mi riferisco non tanto alla diatriba eventuale tra Moratti e Leonardo, eccetera. Volevo però porre l'accento su quanto Moratti ha affermato in questo periodo sulla situazione Calciopoli, quindi il fatto di non poter intervenire nel giudizio su quanto fece e disse Facchetti alla luce delle intercettazioni ultime. Io parlo da tifoso neutrale, quindi non interista neanche di nessun'altra squadra di Serie A, ma di una squadra della mia città, quindi del Calcio Como, e mi sembra assurdo non parlare, non dico criticare la persona Facchetti, ma di non poter parlare dell'intercettazione soltanto perché il signor Facchetti purtroppo è deceduto. E sarebbe come dire che non si può dire che Hitler fu un assassino perché è morto e quindi non si può parlare male di quello che fece. Cioè, ci sono delle intercettazioni, ci sono delle parole. Vabbè, adesso poi il paragone mi sembra un po' ardito, Giuseppe, lasciamo stare, perché poi non dopo è, se un no paragone, è un paragone sì, forzato, è un po', forzato, perché poi bisogna stare attenti a quello che si dice, insomma. Vabbè. Non riesco a capire perché non si possa parlare. Ma no, l'abbiamo già detto in questi giorni, è inutile tornare su questo aspetto, che mi sembra noi l'abbiamo già sottolineato in maniera molto chiara, e il giudizio è legato a quello che emerge dalle carte, al fatto che poi naturalmente si tratti sempre e comunque di una relazione d'accusa di un procuratore federale, che non ci sia la possibilità in questo momento, nel caso intervenga la prescrizione, di andare a processo, dunque di sentire anche le ragioni della difesa, eccetera, eccetera, e poi la figura di una persona che non va toccata dal punto di vista umano e che viene considerata semplicemente per quello che ha fatto in quegli anni, secondo quelle che sono le carte, senza per questo dare un giudizio morale, ma ripeto, su quello che ha fatto nell'ambito di quella che era allora la sua professione. Chiede Michele Ancelotti dove allenerà. In questo momento da nessuna parte, lui vorrebbe fortemente rimanere in Inghilterra, in questo momento però le grandi panchine inglesi sono più o meno occupate, chissà quanta vita lunga avrà ancora Arsène Wenger su quella dell'Arsenal, che sta un po' smobilitando anche se ha preso un grandissimo prospetto dal Lille livoriano Gervinho, e quindi chi vivrà vedrà. Di certo lui, come Giuseppe Rossi e come altri che se ne sono andati, non ha tutto questo entusiasmo poi di tornare in Italia. Andrea Zordi, ci sei in Polonia? Ci sono. Ah, ecco, ti sento benissimo. Colgo anche con qualche notizia più leggera, via. Infatti, sì, meglio. Anche se poi dopo dicono che facciamo i moralisti perché non vogliamo addentrarci in queste questioni, ma non c'è problema. Che succede in Polonia e quante possibilità abbiamo di battere la Bulgaria e andare in semifinale oggi? Dunque, secondo me ce la possiamo fare, nel senso che la Bulgaria è arrivata qui e si comporta come spesso ha fatto, come una squadra che è difficile capire se gioca bene o male, può fare grandi cose ma spesso gioca male. Oggi a noi basta vincere con qualunque risultato, questo ci qualificherebbe direttamente con la Russia, Brasile e Argentina, e ho visto una bella Italia dopo la prima partita in cui ci avevo sorpreso, perché dopo un girone di qualificazione bellissimo fatto di ragazzi che giocano bene a pallavolo con entusiasmo e passione, al primo incontro con l'Argentina abbiamo visto una squadra un po' demotivata, un po' in difficoltà. Berruta ha detto: siamo scomparsi dal campo e questo non deve mai accadere. Ieri sono tornati in campo e hanno fatto vedere che la squadra è piuttosto forte. In cosa sono migliorati ieri, oppure cos'è tornato sul piano tecnico di positivo per superare la Polonia? Guarda, la cosa bella dei giovani è che hanno molto entusiasmo. Il rischio è che possono alternare belle prestazioni ad altre molto meno belle senza che siano particolari motivazioni. Aggiungiamo che tecnicamente parlando l'Argentina è la squadra più interessante di questo torneo, una squadra di ragazzi giovanissimi che sono però abbastanza stabili e giocano, come dicono loro, con molta furbizia, non puntando solo sulla forza ma anche sull'intelligenza, e quindi giocare con una squadra così per i nostri italiani un po' giovani era un po' complicato, se non fosse anche per il confronto diretto tra giovani. Quello l'ha vinto facilmente l'Argentina, i nostri ragazzi hanno recuperato ieri e sarebbe bello potersi ritrovare domani, anzi dopodomani, a fare la finale con l'Argentina. Grazie Andrea Zordi, ci ritroviamo nei prossimi giorni per commentare l'esito finale della World League. In bocca al lupo all'Italia del nostro CT Berruto, appuntamento anche con voi naturalmente la settimana prossima da lunedì alle 14 con A Tempo di Sport. Grazie a Franco Piantanida in redazione, Mauro De Angeli in regia. Rimane sempre l'appuntamento anche nei weekend dopo il GR del 19 con l'esclusiva di Ivan Basso dal Tour de France. Buon weekend da Massimo Callegari.